L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Ultima puntata prima di Natale, anche se mi sembra che il clima, soprattutto qui in Italia, non sia poi molto natalizio. Devo subito fare una precisazione importante prima poi di tuffarci nel racconto della settimana da sabato scorso, 12 dicembre fino a ieri, 18 dicembre, naturalmente utilizzando come sempre i servizi dei GR delle 24 più un paio di ospiti. Non possiamo naturalmente prescindere dall'aggressione di domenica a Milano a Berlusconi, che avrà suo malgrado un posto d'onore nella biografia del Cavaliere e un posto importante nella storiografia della Seconda Repubblica. Però non ci dilungheremo troppo proprio sul tema, sulla vicenda in sé dell'aggressione, non perché non sia naturalmente una cosa grave e importante, ma perché se ne è già parlato in lungo e largo un po' in tutti questi giorni a Radio 24, nei GR, nelle trasmissioni, anche in queste stesse ore. Quindi per adesso limitiamoci alla cronaca di domenica pomeriggio. Stefano Totoro era in piazza per Radio 24 a Milano a seguire il comizio di Berlusconi, che avrebbe dovuto chiudere la giornata organizzata per il tesseramento del PDL. I sostenitori sono dietro una transenna a mani tese per cercare di salutarlo, per stringergli la mano. Berlusconi è sorridente, saluta e ringrazia. Poi improvvisamente la scena cambia. Qualcuno urla, l'hanno colpito, il premier scompare dalla visuale per qualche secondo, poi riemerge con il volto coperto di sangue. Sì, l'hanno colpito in pieno volto, sulla sinistra, con una statuetta di gesso raffigurante il Duomo di Milano, scagliata a più riprese contro il viso del leader del PDL. Gli uomini della sicurezza si dividono, una parte mette in salvo il presidente, un'altra cerca di capire chi è stato. In pochi secondi viene individuato un uomo, tutti lo indicano come l'autore del gesto e lui rischia il linciaggio. Le forze dell'ordine lo prendono di peso e lo trascinano fuori, poi in macchina, poi in questura. Massimo Tartaglia ha 42 anni, originario di Cesano Boscone, grafico di professione, è malato, ha problemi psichici e in cura da 10 anni al Policlinico di Milano. Non sono io, non sono nessuno, dice alla polizia. Poi viene arrestato con l'accusa di lesioni pluriaggravate dalla qualifica di pubblico ufficiale, della parte offesa e dalla premeditazione. Ha passato tutta la notte in questura, interrogato dal procuratore aggiunto Armando Spataro. È l'epilogo di un pomeriggio che già in pieno comizio del premier aveva mostrato segni di tensione. Alcuni manifestanti cercano di avvicinarsi al palco, urlano slogan contro il premier, il popolo del PDL li allontana e Berlusconi dal palco reagisce. Vergogna! Vergogna! Vergogna! Berlusconi rimane ricoverato al San Raffaele fino a giovedì, mentre fuori dall'ospedale succede praticamente di tutto. La maschera di sangue del premier fa un po' il giro del mondo, tantissimi leader telefonano, compreso Obama martedì, a Berlusconi. Tanti poi sono andati in visita, alcuni se vogliamo persino in pellegrinaggio a trovare Berlusconi. Abbiamo visto i figli, abbiamo visto Fini, Emilio Fede, Confalonieri. Naturalmente è andato anche, e questo è un gesto molto significativo, il segretario del PD Bersani. Però nonostante l'eccezionalità e la gravità del gesto, che ha subito peraltro fatto scattare paragoni con gli anni 70, con il clima di tensione di qualche decennio fa, il clima tra maggioranza e opposizione, più che placarsi, più che calmarsi, eppure anche Napolitano ha continuato con i suoi ennesimi appelli alla calma, si è acceso ancora di più. In questo caso non mi interessa, non voglio neanche dire chi, secondo me, ha ragione tra i due schieramenti nell'attribuire all'altra parte politica la responsabilità di quello che è successo. Bisogna però, e ci tengo particolarmente a sottolineare, che non ho sentito nessuno, né a destra né a sinistra, a meno che non mi sia sfuggita qualche voce, diciamo così, isolata, ammettere una sua colpa, anche una piccola parte di colpa, ammettere un tono eccessivo del proprio partito e non di quello opposto. Così la maggioranza ha continuato a dire che la colpa è della sinistra, la sinistra sostanzialmente ha ripetuto che la colpa è sempre solo di Berlusconi. La sintesi perfetta, impietosa di quello che ho appena detto, avviene martedì con la giornata in Parlamento che ci racconta Elisabetta Fiorito. Scontro aperto nell'aula di Montecitorio, con toni addirittura definiti incendiari dal presidente Gianfranco Fini. L'aula si infiamma appena prende la parola il capogruppo PDL Fabrizio Cicchitto, per ribadire ancora una volta che l'aggressione al premier Silvio Berlusconi è stata compiuta da uno squilibrato, fomentato però dal clima d'odio. A condurre questa campagna è un network composto dal gruppo editoriale Repubblica Espresso, da quel mattinale delle procure che è Il Fatto, da una trasmissione televisiva condotta da Santoro e da un terrorista mediatico di nome Travaglio. La tensione raggiunge il culmine quando inizia a parlare il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, che risponde a Cicchitto. I deputati del Popolo della Libertà escono dall'aula, come rivela lo stesso Di Pietro e Fini. Volevo rispettare le persone che non vogliono ascoltarmi. Stanno uscendo, quindi. esprimo solidarietà totale, mia e del partito, alle persone condannate a morte dall'onorevole Cicchito. In serata lo stesso Fini telefona a Berlusconi e definisce l'intervento di Cicchito inutile e incendiario. L'ottavo giorno. In tutto questo l'aggressione a Berlusconi non è stato l'unico gesto di violenza di questi giorni. A Milano sono successe tante altre cose, tutte a Milano, che spesso è una città che anticipa e riassume nel bene e nel male quello che poi accade in Italia. Infatti sabato scorso ci sono stati fischi al sindaco Moratti e scontri tra centri sociali e polizia durante la commemorazione dei 40 anni dalla strage di Piazza Fontana, e sempre a Milano mercoledì alla Bocconi esplode una bomba rivendicata dagli anarchici, poi bisogna capire chi sono questi anarchici. Molta paura, ma per fortuna danni lievi. E nel frattempo internet, la sconfinata e a volte fantomatica rete, diventa la cassa di risonanza di queste cronache, di queste vicende. Dentro internet finisce naturalmente di tutto. C'è chi inneggia Tartaglia, chi vuole invece la testa di Tartaglia per amore incondizionato a Berlusconi. E qualcuno nella maggioranza in questi giorni pensa anche a dei provvedimenti, diciamo così, selettivi. Potremmo parlare di censura magari a fin di bene, ma secondo me sempre sbagliata. Sentiamo proprio su questi spunti, su questi temi, la copertina del GR delle 7 di giovedì firmata da Daniele Biacchessi. L'aggressione al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, la contestazione al corteo in memoria delle vittime di Piazza Fontana e i pacchi bomba ritrovati in queste ore sono fatti gravissimi, che però non devono indurre il governo a promulgare leggi speciali di polizia. La legislazione di emergenza venne approvata negli anni 70 con il consenso di maggioranza e opposizione. Negli anni 69-80, in cui il terrorismo di destra e di sinistra attaccò lo Stato in modo frontale, con stragi, omicidi, ferimenti, colpiti magistrati, giudici, uomini delle forze dell'ordine, giornalisti e vittime innocenti. Nella sola Milano, dove sabato è stato colpito Berlusconi, tra il 69 e l'80 ci sono stati oltre 100 omicidi politici e fatti di sangue in scontri di piazza. Erano anni spietati, come hanno ben raccontato domenica sera i giornalisti Caselli e Valentini in un programma televisivo. Anni in cui la violenza politica e l'odio contro l'avversario aveva travolto un pezzo consistente, anche se fortunatamente minoritario, di una generazione. Ciò che accade oggi, pur in uno stato di tensione politica forte, non è minimamente paragonabile alla notte della Repubblica. Per questo leggi speciali, limitazioni alle libertà di manifestare, risulterebbero oggi incompatibili coi dettami delle linee della nostra Costituzione. La politica in questi giorni si è avvitata, mi verrebbe da dire involuta, attorno all'aggressione a Berlusconi. Si sono cristallizzate un po' le posizioni di Guelfi e Ghibellini, cioè di berlusconiani e anti-berlusconiani. Ma nel frattempo sono successe molte altre cose importanti che è giusto ricordare in questi minuti. Ad esempio, lunedì il CSM, ovvero il Consiglio Superiore della Magistratura, si pronuncia sul progetto di legge della maggioranza sul processo breve. Giusto per ricordare un po' a tutti noi che la giustizia rimane il vero ingombrante macigno che incombe un po' su tutta la politica italiana. Naturalmente si potrebbe aprire una parentesi gigantesca sul fatto che il CSM ha espresso un parere su una legge che non è ancora stata approvata dal Parlamento, quindi capire se sia un parere legittimo o uno sconfinamento invece da quelle che sono un po' le reali competenze del Consiglio Superiore della Magistratura. Ma naturalmente non ho un giurista qui accanto per affrontare questo tema, quindi mi limito alla cronaca dei fatti. Riascoltiamo allora Andrea Viali nel GR delle 7 di martedì. Uno tsunami, questo, secondo il CSM, rischia di essere per la giustizia il disegno di legge sul processo breve, sul quale ieri anche il plenum di Palazzo dei Marescialli ha espresso parere negativo. Per l'organo di autogoverno delle toghe si tratta di un provvedimento che è incostituzionale e di fatto introduce un'amnistia che riguarda anche reati gravi come quello di corruzione. Una bocciatura, insomma, arrivata con un voto a larga maggioranza, commentato così dal vicepresidente del CSM, Mancino. Noi diamo questo parere, lo abbiamo dato disinteressatamente nell'interesse della macchina giudiziaria, speriamo che se ne possa tenere conto. Più che il voto sul processo breve a scaldare gli animi nel corso della riunione del CSM, ieri è stato però l'intervento del consigliere laico di centrodestra Anedda, secondo cui anche le dichiarazioni di magistrati come Spataro e Ingroia avrebbero contribuito al clima di odio che ha portato all'aggressione di Berlusconi, accuse che hanno fatto insorgere i consiglieri Togati e lo stesso Mancino, ma anche l'Associazione Nazionale Magistrati, che ha definito inaccettabili le sue dichiarazioni. E mercoledì il PDL ufficializza una serie di candidature tutte importanti in vista delle regionali dell'anno prossimo. In realtà mancano davvero pochissimi mesi. Sentiamo il lungo elenco con Simone Spezia. Giuseppe Scopelliti in Calabria, Renata Polverini nel Lazio, Sandro Biasotti in Liguria, il leghista Roberto Cota a correre in Piemonte contro Mercedes Bresso. Ma la candidatura per le regionali che rischia di creare più di un problema al Popolo della Libertà è quella per il Veneto. L'ufficio di presidenza del PDL ha infatti deciso che a rappresentare la coalizione ci sarà un uomo del Carroccio. I nomi noti sono quelli del ministro dell'agricoltura Luca Zaia o del sindaco di Verona Flavio Tosi, ma l'attuale presidente Giancarlo Galan aveva già fatto capire di non gradire molto, tanto da minacciare nei mesi scorsi di presentarsi con una sua lista e da definire la scelta ieri stesso come peggiore di un tradimento. Si vedrà. Nel frattempo il partito del Cavaliere risponde ai richiami di Napolitano, proponendo un patto democratico di legittimazione reciproca che porti ad una stagione di riforme, e lo propone ad UDC e Partito Democratico. La formazione di Casini promette una valutazione attenta e responsabile. Pierluigi Bersani chiarisce: per noi il patto sono le regole democratiche in se stesse e i confini sono il no alle leggi ad personam. Io ho l'impressione che in Veneto ci sia un po' aria di burrasca, anche su Facebook è partita una mobilitazione pro Galan, vedremo come andrà a finire questa sfida, interessante comunque sul piano politico del Veneto. Poi ricordiamo invece che in Lombardia, dove domenica, peraltro poco prima dell'aggressione a Berlusconi, è stata ratificata la candidatura di Formigoni, l'ennesima eterna di Formigoni, c'è poi scompiglio per l'arresto di mercoledì dell'assessore regionale allo sport e al turismo Pier Gianni Prosperini. In questo clima segnalo il regalo che ieri ha fatto Fini a Feltri, il direttore del giornale che in più di un'occasione ha preso a bersaglio il presidente della Camera e non certo con modi vellutati in questi mesi. Ebbene, Fini ha regalato a Feltri un flacone di Valium. Sicuramente Valium ne ha girato poco, credo, alla Camera, dove in questi giorni è stato discusso e votato tutto quello che riguarda la finanziaria. Sentiamo su questo proprio Vincenzo Miglietta giovedì mattina. Con 307 voti a favore e 271 contrari, l'Aula di Montecitorio dice sì alla richiesta di fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della finanziaria, che di fatto accorpa tutta la manovra economica. L'intero provvedimento sarà approvato oggi, andrà quindi al Senato per il passaggio definitivo. Il testo vale circa 9 miliardi di euro e prevede nuove risorse per il lavoro e gli ammortizzatori sociali, ed ancora il ponte sullo stretto, i libri scolastici, il 5 per 1000, la Banca del Sud e il Servizio Sanitario Nazionale. Risorse che per più di un terzo arriveranno dallo scudo fiscale. Una misura questa, ha spiegato il ministro dell'economia Tremonti, che fa bene al rilancio del paese. Se fosse confermata la cifra, 80 o più, vuol dire che è la più grande manovra finanziaria mai fatta negli ultimi anni e non so dove altro. Tremonti ha avuto intanto un chiarimento con Fini dopo le critiche del presidente della Camera sul ricorso alla fiducia. Critiche tuttavia che per l'opposizione restano tutte in piedi, così Soro, Partito Democratico. Insieme alla forma assolutamente scorretta c'è un dato di merito, che questa legge finanziaria è l'ennesima manovra degli ultimi 20 mesi con i quali il governo rinuncia a governare la crisi del paese, galleggia sulla crisi. Dalla maggioranza Cicchitto replica: la fiducia è legittima ed è un'assunzione di responsabilità. Giovedì in serata, quindi poche ore dopo il servizio che abbiamo sentito di Vincenzo Miglietta, è arrivato il sì definitivo alla Camera. Adesso in pochi giorni ci sarà un nuovo passaggio al Senato, che credo, anche perché siamo arrivati al 31 dicembre ormai, sarà l'ultimo. Io vorrei capire soprattutto se questa finanziaria che è uscita dalla Camera è poi quella dal volto definitivo e quindi sulla quale possiamo tentare di fare un bilancio. Lo chiedo a Dino Pesole, collega del Sole 24 Ore, che è qui accanto a me in studio. Buongiorno Dino. Buongiorno. Possiamo trarre un bilancio di questa finanziaria 2010? Sì, certamente il testo che è stato approvato dalla finanziaria sarà il testo definitivo. Il Senato ratificherà le modifiche in breve tempo e quindi la partita si può considerare chiusa. Ricordo che rispetto al testo che è stato trasmesso in prima lettura dal Senato, la Camera l'ha profondamente cambiato e infatti ha sostituito con un maxi emendamento l'intero articolo 2, che adesso si compone di 243 commi. E non solo questo, perché poi la manovra è anche lievitata nel suo impatto dal punto di vista dei conti, perché era arrivata con una dote finanziaria di 3,4 miliardi, adesso ne esce con una dote di 9,2 miliardi. Cioè nel frattempo si è irrobustita. E questa è la dote dello scudo fiscale, se non sbaglio. Sono sostanzialmente due le coperture della manovra. È lo scudo fiscale, che copre per 3,7 miliardi di interventi che sono stati introdotti. E poi c'è un ulteriore elemento importante, e cioè che ci sono 3,1 miliardi del trattamento di fine rapporto che sono nella disponibilità dell'INPS, perché riguarda la quota di TFR che non è stato optato, come si dice in termine tecnico, cioè sul quale non sono state operate delle scelte né sono state dirottati ai fondi pensione. Bene, quella quota viene in qualche modo prestata, tra virgolette, dall'INPS al Tesoro, che la utilizza per la copertura della manovra. Si tratta di due entrate, ovviamente, di tipo straordinario, che fanno capire che questa è sostanzialmente una finanziaria in cui non ci sono risorse e il governo le ha trovate barcamenandosi un po' là. Riusciamo in 30 secondi a segnalare i tratti distintivi di questa finanziaria? Dove, a tuo giudizio, dobbiamo soffermarci nella lettura del testo? Sicuramente la parte rilevante è l'introduzione nel testo della finanziaria del patto sulla salute, che recepisce l'accordo con le regioni. Poi ci sono una serie di norme di un certo interesse. Direi innanzitutto il fatto che sia stato deciso di incrementare il credito d'imposta per le aziende che investono in ricerca e innovazione. Sono state introdotte risorse per ulteriori 200 milioni nel 2010 e altrettanti nel 2011, quindi questo è un passaggio importante. E poi ci sono tutta una serie di norme, ad esempio il fatto che si sia deciso di restituire in via permanente l'ICI ai comuni per il mancato gettito dovuto appunto all'abolizione dell'imposta, e una serie di altre micromisure che sarebbe quasi impossibile qua segnalare, se non magari una che è importante: quasi 1 miliardo stanziato per il capitolo complessivo del welfare, tra cui appunto il sostegno alle persone che perdono il lavoro. Si tratta di misure che in qualche modo tentano di far fronte, ovviamente con degli importi che sono non certo enormi, a una situazione permanente di crisi dalla quale forse sperabilmente usciremo nel prossimo anno. L'ottavo giorno. Ancora qualche minuto da spendere in compagnia di Dino Pesole, collega del Sole 24 Ore, che sta seguendo attentamente le vicende della finanziaria tra Camera e Senato. Prima abbiamo ricordato i punti salienti di quello che è dentro questo testo del 2010. Adesso vorrei capire invece che cosa manca e perché, e magari che cosa ritroveremo nel futuro da parte di questo governo. Manca quello che la maggioranza al Senato in prima lettura, ricordo, ha provato a inserire, e il ministro Tremonti ha fatto capire che non c'erano elementi, quindi non c'erano risorse. Manca un avvio di riduzione dell'IRAP, un primo intervento, se n'era parlato al Senato, per cominciare a abbassare il carico fiscale sulle famiglie numerose. E poi manca una cosa importante, che forse vedrà la luce nei prossimi mesi, che è la cedolare secca del 20% sugli affitti, che è una misura, per la verità, che piacerebbe a tutti, destra, sinistra, centro. Avrebbe, credo, in Parlamento una votazione quasi plebiscitaria, che però è stata rinviata per mancanza di risorse. È stata inserita, questo è interessante, solo in via sperimentale per la provincia dell'Aquila. Giustamente, tenendo conto poi del momento difficile, credo che sia stato anche prorogato lo slittamento del pagamento delle tasse, naturalmente. Certamente. Tenendo conto della difficoltà straordinaria e drammatica dei terremotati. Nel frattempo, in questi giorni, il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 30 di aprile lo scudo fiscale. A questo punto io naturalmente poi ti lascio ampiamente discettare sullo scudo fiscale. Volevo capire se questo allungamento del provvedimento lo dobbiamo prendere come un qualcosa di positivo, perché vuol dire che lo strumento ha funzionato, oppure in qualche modo dobbiamo preoccuparci perché in fondo rimane ancora oggi l'unico strumento sostanziale con il quale trovare soldi e mettere in piedi manovre come quelle che abbiamo appena visto in questi minuti. Il successo dell'operazione dello scudo fiscale mette senza dubbio in luce il fatto che evidentemente all'estero esistono capitali di notevole portata che sono completamente occultati al fisco, non solo al fisco ma all'intera economia del paese. Quindi il fatto che rientrino in qualche modo immette nel circuito dell'economia risorse che prima erano fuori. Quindi finora siamo tra gli 80 e 100 miliardi, insomma, cifre imponenti. Ovviamente dal punto di vista dell'incasso bisogna poi fare il 5% di questa percentuale. Comunque sono cifre importanti. La proroga servirà nelle intenzioni del governo a utilizzare anche i primi mesi del 2010 per far rientrare ulteriori capitali. La cifra che si fa per l'ulteriore incremento di gettito rispetto ai 3,7 miliardi che già sono accertati sarebbe attorno agli 1,8-2 miliardi. Ecco, questi 2 miliardi potrebbero costituire, secondo quello che si sa dalle prime intenzioni del governo, una prima dote finanziaria per avviare alcune delle misure che non sono entrate in finanziaria, e quindi magari farle con un decreto. IRAP, cedolare secca, queste cose qui, o magari ripianare i conti. Poi il dilemma è quello, sostanzialmente, credo. Obiettivamente, no? La cifra che abbiamo indicato non sembra straordinaria, sembra enorme, ma è impossibile ipotizzare che con 1,8 miliardi si possa fare una operazione di restituzione fiscale imponente. Però è già una prima cosa dalla quale partire. Bisogna poi sperare che alla metà dell'anno il ciclo economico si inverta, e dunque se si riesce a crescere a livelli accettabili, poi vuol dire che anche il gettito si stabilizza. Insomma, tutto è legato all'andamento dell'economia reale. Allora, sentiamo ancora qualche altro numero che ha raccolto Sergio Nava martedì mattina, e poi proviamo in pochissimi secondi a ragionare ancora con Dino Pesole. Forse, come suggeriva l'OCSE solo pochi giorni fa, l'Italia si colloca nel gruppo di testa, nel treno che prova a imboccare la difficile strada della ripresa dalla crisi. Ma un paio di dati resi noti ieri attenuano un po' l'ottimismo. Il primo arriva da Banca Italia e riguarda il livello del debito, ormai in crescita costante. L'indebitamento italiano ha superato a ottobre quota 1.800 miliardi di euro, il quarto mese consecutivo di record assoluto del debito pubblico, che si avvia a passi veloci verso un rapporto col PIL pari al 120%. Non siamo ancora i grandi malati d'Europa, ma occorre cominciare a chiedersi chi pagherà, prima o poi, il conto di un debito storicamente allegro. E non ci vuole la sfera di cristallo per capire come a soffrirne maggiormente saranno soprattutto i giovani, che nascono, crescono e studiano col loro bel fardello pregresso. L'altro dato, che allarga il quadro dall'Italia all'Europa, conferma che il 2009 passerà alla storia come l'annus horribilis per la disoccupazione. L'estate si è mangiata 1 milione di posti di lavoro nell'Unione a 27, confermando le peggiori preoccupazioni degli abitanti del vecchio continente. E l'ultimo sondaggio Eurobarometro sottolinea come sia proprio la mancanza di lavoro a turbare i sonni degli italiani. Anche perché, se nel contesto europeo il bel paese mantiene sì la barra, collocandosi in perfetta media continentale, mezzo punto in meno di occupati, fa però peggio di Francia, Gran Bretagna e Germania, registrando un'inversione di rotta negativa rispetto al trimestre precedente. Dino Pesole, ti chiedo uno sforzo di estrema sintesi in pochissimi secondi, dopo aver sentito i dati sulla disoccupazione piuttosto preoccupanti di Sergio Nava. Che anno 2009 lasciamo alle spalle dal punto di vista economico per l'Italia e per le casse del nostro Stato? Lasciamo un anno molto critico, molto complesso. Tra pochi giorni avremo la conferma con i dati ufficiali, ma il 2009 si avvia a chiudere con una contrazione del PIL che si colloca attorno al 4,6-4,8%, col deficit che sta oltre il 5%, il debito che viaggia veloce oltre il 115% del PIL. È ovvio che gli indicatori fotografano un anno che è stato pesante dal punto di vista dell'economia, oltre poi ai dati relativi all'occupazione che abbiamo appena sentito. L'aspettativa e la speranza è che il nuovo anno si apra con, e già ci sono dei segnali in questa direzione, con delle prospettive di crescita migliore, e dunque che già alla metà del 2010 si possa cominciare a ragionare con ritmi di crescita un po' più sostenuti. Insomma, speriamo magari tra l'anno di fare conti diversi, un po' più lieti. Grazie a Dino Pesole, collega del Sole 24 Ore. Adesso voltiamo pagina radicalmente, perché dall'economia passiamo a uno dei casi giudiziari più celebri e controversi degli ultimi anni. Sto parlando dell'omicidio di Garlasco, ritorniamo a 2 anni fa. Chiara Poggi la vittima, Alberto Stasi per ora è l'unico colpevole designato, che poi colpevole non è, perché giovedì è arrivata la sentenza di primo grado. Alberto Stasi non è colpevole e adesso chiede silenzio. Poche parole per scacciare l'incubo, lo sapevo, non ho ucciso. E qualche lacrima per liberarsi dalla tensione di 2 anni sulle prime pagine dei giornali nei panni del mostro. Dopo 5 ore di camera di consiglio, il giudice Stefano Vitelli ha pronunciato la sentenza di assoluzione con formula equivalente alla vecchia insufficienza di prove. Una sentenza che era nell'aria, soprattutto dopo le perizie supplementari che il giudice ha preteso, non avendo ritenuto esaurienti gli elementi probatori forniti dalla procura di Vigevano. L'accusa, alla luce delle nuove perizie, ha spostato l'ora presunta della morte di Chiara 2 ore più avanti, in contrasto con l'alibi di Alberto che, come dimostrato, avrebbe lavorato alla tesi di laurea nelle ore precedenti. Ma i punti oscuri sono troppi, dal materiale biologico rinvenuto sulla bicicletta di Alberto, alle scarpe senza tracce di sangue, fino al mancato ritrovamento dell'arma del delitto. Il processo, rito abbreviato, si è celebrato a porte chiuse. Entro 90 giorni verranno depositate le motivazioni della sentenza. I PM, che avevano chiesto 30 anni, e la parte civile hanno già preannunciato il ricorso in appello. In questi casi di solito si dice non finisce qui, e credo che non finirà così nemmeno la vicenda di Garlasco. Naturalmente rimangono moltissimi dubbi. Io personalmente mi sono reso conto di una cosa, soprattutto ascoltando le cronache, leggendo le cronache di questi giorni, cioè l'accusa ha fatto molti errori e una certa confusione. Questo naturalmente non significa che non dobbiamo accettare l'innocenza, perlomeno di primo grado, di Alberto Stasi. Ultimi minuti di questo spazio dedicato agli esteri. Torniamo subito a domenica scorsa con due flash, due istantanee di segno opposto. La prima arriva dall'Iran, la seconda dal Cile, perché a Teheran Khamenei, la guida suprema, lancia nuove accuse pesanti alle opposizioni, mentre a Santiago si fanno i conti con delle libere, democratiche elezioni. Sentiamo Farhan Sabai e poi Emiliano Guanella. Il leader supremo se l'è presa per l'ennesima volta con Mousavi e Karroubi, due leader dell'opposizione colpevoli di aver trasformato una lite in famiglia in una sfida alla Repubblica Islamica, al punto che qualcuno avrebbe persino strappato un poster dell'Ayatollah Khomeini. Le TV hanno ripreso lo sfregio, ma Karroubi e Mousavi dicono che quelle immagini sono false. Il leader supremo ha anche detto che l'opposizione sarà eliminata, una dichiarazione trasmessa dalla TV di Stato per ribadire l'appoggio al presidente Ahmadinejad. E questa non è una novità. Bisogna invece riflettere sulle conseguenze della repressione. Anche il bazar di Teheran è dalla parte dell'opposizione, ma le intimidazioni sono tali che la maggior parte degli iraniani preferisce evitare di esporsi. 14 punti di differenza, un'enormità praticamente incolmabile. Sebastian Piñera assapora la vittoria, comodo al suo 44%, soprattutto perché il suo rivale al prossimo ballottaggio, il democristiano Eduardo Frei, esponente della Concertazione di centrosinistra che governa il Cile da 20 anni, rimane fermo al 30%. Il terzo piazzato Marco Enrique Sominami, candidato indipendente, è stato capace di catturare un quinto dei consensi in pochi mesi di campagna. E lui la vera sorpresa, un grande exploit politico, voti però che, come ha detto ieri lo stesso Enrique Sominami, non sono in vendita, non sono trasferibili. L'impresa per Frei diventa quindi difficilissima. Dopo 4 mandati consecutivi, l'egemonia dell'alleanza fra socialisti, socialdemocratici e democristiani sembra volgere al termine e il Cile potrebbe segnare un'inversione di tendenza con una guida di destra nel contesto dei paesi sudamericani, in gran parte governati oggi da presidenti progressisti. A Copenaghen, quella che è appena terminata, è stata invece la seconda settimana del vertice ONU sul clima, un vertice lungo, fluviale, come vuole la tradizione di questi summit. Sentiamo la cronaca di lunedì firmata da Gigi Donelli, l'inviato di Radio 24 in Danimarca. The African Group is completely disappointed. Forti del sostegno avuto dai paesi in via di sviluppo del G77 e dalla Cina, gli africani hanno ottenuto che venga data maggiore enfasi al protocollo di Kyoto in scadenza nel 2012 e che si discuta anche un'estensione degli impegni che in quel solco hanno chiesto ai paesi industrializzati di farsi carico di maggiori taglio delle emissioni di gas serra, ma anche di finanziare la trasformazione economica dei paesi più deboli. La presidenza danese è riuscita a ricucire lo strappo, ma a 5 giorni dal termine, da Copenaghen emergono soprattutto divisioni. Molto ampie appaiono quelle tra Cina e Stati Uniti. Non solo si discutono schemi di finanziamento e tetti di emissione, ma l'idea stessa che Pechino sia insieme dragone dell'economia e leader dei paesi in via di sviluppo genera una tensione molto forte con Washington, che rifiuta la responsabilità storica di un secolo di emissioni e che ha già detto che non intende finanziare ulteriormente con denaro pubblico la rampante economia cinese. Ieri è stato il gran giorno di Obama, che è arrivato e ha parlato a Copenaghen. Devo dire che gli applausi per il suo intervento sono stati un po' freddini. Insomma, Obama ha incitato la prosecuzione dei lavori per trovare una quadra sul clima, ma non ha poi del tutto convinto. Segnalo anche invece lo show di Chavez, che ha inveito contro il capitalismo, contro lo stesso Obama, premio Nobel. Insomma, tanti intenti in questo complicato vertice dell'ONU sul clima di Copenaghen. L'ottavo giorno. Questi ultimi minuti dell'ottavo giorno di oggi li voglio dedicare tutti al calcio, lo ammetto, argomento che mi sta molto a cuore, ma sicuramente sta molto a cuore anche agli ascoltatori. È stata una settimana intensa che proveremo a dipanare insieme a Carlo Genta, voce dello Sport della 24, che è in collegamento con noi. Buongiorno Carlo. Buongiorno a te Emiliano, buongiorno a tutti. Allora Carlo, cominciamo subito dalla coda, dalla fine di questa settimana ricca per il calcio, perché ieri ci sono stati i sorteggi di Champions League degli ottavi. Io Carlo mi limito all'elenco delle sfide che sono capitate alle italiane. Poi naturalmente lascio a te lo spazio per le suggestioni e per analisi tecnica. Inter-Chelsea, Milan-Manchester United e Fiorentina-Bayern-Monaco, peggio che andare di notte, insomma. Sì, peggio di così non poteva andare. Per il sorteggio dei mondiali qualcuno aveva parlato della pesca più miracolosa dai tempi del lago di Tiberiade, no? In questo caso probabilmente abbiamo scontato tutta quella fortuna con un sorteggio che peggiore di così onestamente non poteva essere, però sono grandi partite, insomma, volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, se vuoi vincere la Champions League devi eliminare il Chelsea, devi eliminare il Manchester United. La Fiorentina, che è quella che ha fatto meglio fin qui delle italiane, ha preso il Bayern Monaco, che pure non è un cliente semplice, anche questa, memore di quanto successo l'anno scorso col Bayern che eliminò la Fiorentina, sfida ricca di grandi suggestioni. Ti confesso che ieri, subito dopo il sorteggio, volendo prendere un po' in giro gli amici tifosi qui in redazione che ben conosci, dicevo, ma in fondo a primavera, all'inizio della primavera è meglio non avere grandi impegni televisivi il martedì e il mercoledì sera. Ovviamente scherzo, saranno comunque grandi partite, da Beckham che torna al Trafford avversario per la prima volta, a Mourinho che torna a Stamford Bridge con un profumo di derby nell'aria, Emiliano. Certo, non c'è dubbio che i più sereni tra i tifosi sono quelli della Juve, che è già eliminata e che tra l'altro giocherà in Europa League contro l'Ajax, mentre, tanto per chiudere il discorso sulla vecchia Coppa UEFA, la Roma affronterà i greci del Panathinaikos, e con le squadre greche la Roma ha un tabellino favorevolissimo nel passato, quindi la tradizione forse verrà confermata. Non c'è dubbio però, non so se sul piano tecnico ma sicuramente sul piano giornalistico, Inter-Chelsea è la sfida più attesa, insomma, Mourinho contro Ancelotti, Mourinho che ritrova il Chelsea, insomma, via dicendo. La più intrigante è una partita chiave, ma sappiamo, al di là delle suggestioni Mourinho contro Ancelotti, il derby e Mourinho che torna a Stamford Bridge e tutte queste cose, l'Inter andrà a giocare questa partita con enorme pressione, quella pressione che si mette la solita pressione anno dopo anno. La solita pressione, perché sai, questo scimmione, questo gorilla sulla spalla, il gorilla europeo, il gorilla della Champions League, che non andrà via e anzi diventerà sempre più grande, pesante e ingombrante fino a quando la coppa verrà alzata dal capitano dell'Inter. È un po' come in Italia, l'Italia ci ha messo la ventina d'anni per scrollarsi di dosso questo incubo dello scudetto, poi una volta che l'ha vinto ha preso l'abbrivio, non so se in Champions sarà così. Te la senti di fare un pronostico, almeno il numero delle italiane che secondo te possono passare? Pronostico secondo me è difficilissimo, il Milan onestamente la vedo dura con il Manchester United, credo che possa essere una sfida molto più equilibrata quella dell'Inter, in tutta onestà. La Fiorentina ce la può fare, anche se il Bayern Monaco, a differenza di altre potenziali avversarie, è una squadra che ha giocatori con il colpo in grado di risolvere da soli, mi viene in mente subito Ribéry, di risolvere da soli queste partite, anche se non è la migliore edizione possibile del Bayern di Monaco. Molto difficile da leggere, capirai. Importante sarà arrivare a quelle partite, soprattutto per l'Inter, a quelle partite nelle migliori condizioni psicofisiche. No, beh, io Carlo forse sarò scettico, comunque mi sento realista, temo il brusco risveglio, 0-3, le tre italiane tutte fuori, però insomma naturalmente non vorrei gufare, insomma, troppo. Visto che abbiamo parlato abbastanza dell'Inter, inevitabilmente è il refrain di questi mesi e lo sarà ancora nei prossimi, e di Mourinho, che è il personaggio calcistico del 2009 in Italia. Mourinho insomma è reduce da un periodo piuttosto nervoso, piuttosto spigoloso, c'è stata una mezza zuffa domenica a Bergamo, lui era squalificato in tribuna, se l'è presa con un giornalista del Corriere dello Sport. Questa è la sua difesa, la riascoltiamo nel servizio di Dario Ricci, una difesa non proprio incrollabile, sentiamo appunto Dario Ricci. Il miglior modo di finire la storia penso che è finirlo con un po' di buon umore e di dire che mi aspetto da lui un regalo di Natale. Prova a buttarla sul ridere, José Mourinho, lui che pure più di una volta ha dimostrato di non avere nel sorriso il suo pezzo forte. E allora la conferenza stampa da Piano Gentile, disertata da molti giornalisti per protesta, conserva i toni del processo al tecnico portoghese, reo di aver insultato l'inviato del Corriere dello Sport Andrea Ramazzotti nel dopogara di Atalanta-Inter. La colpa del giornalista? Essersi avvicinato al pullman della squadra per ascoltare, autorizzato dal club, le interviste dei giocatori al canale nazionale tematico nerazzurro. Troppo per lo Special One, i cui distinguo interesseranno magari la Procura federale che indaga sull'episodio, ma non cambiano la sostanza dei fatti. Dello stesso modo che dico con onestà è vera l'offesa, dico con la stessa onestà non è vera contatto fisico, aggressione, tentativo di aggressione. Carlo Genta, vuoi aggiungere qualcosa su questo showman, su Mourinho un po' bizzoso delle ultime settimane? No, ma ti dico, a me Mourinho in fondo è simpatico, qui vado probabilmente, sì, probabilmente un po' controtendenza, controcorrente. Mi è simpatico, è chiaro che è stata una vicenda molto antipatica quella che è capitata. Mi risulta anche che ci siano ruggini antiche tra Andrea Ramazzotti, questo collega del Corriere dello Sport, e l'allenatore dell'Inter, quindi non è stata una uscita estemporanea a un pregresso che non conosco e francamente nemmeno mi interessa più di tanto. Devo dire che guardandolo così, lo vedrai anche tu, no? Mi sembra un Mourinho molto pensieroso, molto più triste. Mourinho non lo vedo sorridere da un sacco di tempo, non so, chissà tu. Forse pensa già al futuro fuori dall'Italia. Io ho l'impressione che comunque quando se ne andrà, non so se quest'anno o nel futuro, poi noi soprattutto giornalisti lo rimpiangeremo, e credo anche forse i tifosi dell'Inter. Carlo, abbiamo ancora un paio di minuti scarsi e un paio di cartucce da sparare. Innanzitutto vorrei almeno citare il primo processo, le prime sentenze di Calciopoli, 3 anni a Giraudo in attesa poi del verdetto, che sarà naturalmente quello più atteso e più chiacchierato, quello di Moggi, che ha scelto il rito ordinario. Che vogliamo dire di questa pagina comunque importante, anche se dolorosa, per il calcio italiano? Ma io dico soltanto che quando parlano i giudici io mi inchino, massimo rispetto dei giudici, della magistratura, del loro operato e delle sentenze, ma questo per principio. Quindi ogni riferimento alla politica è puramente casuale. Assolutamente, assolutamente. Ma al di là di questo, insomma, queste sentenze, queste carte, insomma, io credo possano chiudere la bocca a molti che avevano cominciato che parlavano già da tempo di montatura, di gossip, di nulla di serio, nulla di concreto, di fantasia, eccetera, eccetera, eccetera, annacquando un po' tutto quello che è successo. Credo che questa sentenza, insomma, sia da leggere e da rispettare, e parli piuttosto chiaro, no? Su quello che è effettivamente successo. L'impressione è che diciamo la china della giustizia ordinaria e di quella sportiva stiano convergendo, quindi questo, insomma, sì, sarà un po', credo, il finale senza poi anche qui portare male a Moggi al suo discorso e alla sua sentenza. 10 secondi per parlare invece di basket, argomento che so che ti sta anche molto a cuore e naturalmente anche ai nostri ascoltatori. Abbiamo un nuovo allenatore della nazionale dopo un periodo a dir poco burrascoso, che però è anche un allenatore di club, un fatto abbastanza inedito, magari per altri sport, forse nel basket è una cosa più usuale. Insomma, sto parlando naturalmente di Pianigiani. Cosa è già successo? Pianigiani da ieri ufficialmente ha firmato biennale, contratto di 2 anni, sarà il nuovo allenatore della nazionale. È la scelta migliore perché è l'allenatore più bravo che abbiamo in Italia, è il più credibile. Si è molto discusso con questa disputa tra Meneghini e Petrucci sulla figura del part time. Io condivido invece questa formula, anche perché insomma, l'anno prossimo la nazionale giocherà 6 partite, molto importanti qualificazioni agli europei, tra il 2 e il 29 di agosto. Pianigiani avrà tutto il tempo per lavorarci sopra, per pensarci, per rifletterci, e poi l'esperienza del CT della Nazionale di Basket part time a noi almeno ha portato bene, perché non dimentichiamo che i migliori risultati degli ultimi anni, cioè l'argento, il bronzo europeo e l'argento olimpico soprattutto ad Atene 2004, arrivarono con recalcati che avevi i piedi in 2 scarpe, curiosamente quella azzurra e quella della Montepaschi Siena. Dunque un'esperienza che ha funzionato nel passato, non vedo perché non debba funzionare ora. Carlo, confido nel tuo ottimismo, io ti ringrazio, faccio a te naturalmente e a tutti gli ascoltatori gli auguri di Natale, perché siamo arrivati alla fine, in bellezza credo, di questa puntata. Ci risentiremo presto, magari per parlare sia di Mourinho che di Pianigiani. Quando vuoi. A presto, ottavo giorno è radio24.it, la nostra mail. Ringrazio Valerio Rocchetti in regia, ci risentiamo sabato prossimo alle 9 oppure in replica alle 23, naturalmente sempre su Radio 24, una puntata speciale con il meglio e il peggio del 2009.